melancolía. Cada noche junto a la luna sigue guajiro entonando el sol. Cada calle que va a mi pueblo tiene un quejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando por la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón.

all the tears of prayer. There's something inside us that goes to the sun. The skies are peaceful above. Bring the beautiful ones again. We know the wonder of the magic power of love. Of the Maria, basta un mezza via, seduto pavvede. Non trovo l'ora e pace, ma la te faccia giorno, sempre che stacca attorno, sperandoci a parlare. Oi Maria, oi Maria, quanto suon che perdo per te, fammi dormire, nata volta abbracciata con te. Oi Maria, quanto suon. menester, marico na manel, no sé de dónde va. Sola guitarra mía, María se scelta, una bella serenata, facimmola sentire. Oi mari, quanta suon che per dove te fa dormi, abbracciate un poco tutte. Oi mari, quanta suon che per oi Mari, oi Mari, oi Mari, oi Mari, oi Mari, oi Mari, oi Mari, oi Mari, quanto suona il capello per te. Mamma, dormi, oi Mari. yesterday. Dream is gone, baby. The dream is gone away for good. Good man should. I'm free now. I'm free from your spell. Free, free now, baby. I'm free from your spell. Now that it's all over, all I can do is wish you well. I miss you. I come on, hang together, compagnie. Hang together, compagnie. Oh, Lord, sing a song, hang together. Oggi tutti c'ero in festa, mi ritende brilla il sole, e non so perché vedo intorno a me tutte rose e viole. Il mio cuore innamorato non lo posso più frenare, io non so cos'è, c'è qualcosa in me che mi fa cantare. Fiori in fiorello d'amore, bello vicino a te, mi fa sognare, mi fa tremare, chissà perché. Fiori margherita,Vita, se non c'è l'amore che non ti occorre fa partita. Fior di verbena che qualche pena l'amor ci dà, ma come il vento che in un momento poi passa e va. Ma quando tu sei con me, sono felice perché fior in fiorello l'amore è bello vicino a te. Oggi tutto il cielo in festa, tu ridete brilla il sole Non so perché vedo intorno a me tutte rose e viole. Il mio cuore innamorato non lo posso più frenare. Io non so cos'è, c'è qualcosa in me che mi fa tremare. Fiori in fiorello, l'amore è bello vicino a te. Mi fa sognare, mi fa tremare, chissà perché. Fiori margherita, ormai la vita, se non c'è l'amore che nostro cuoreDi verbena se qualche pena l'amor ci dà, ma come il vento che in un momento poi passa e va. Ma quando tu sei con me, felice perché il fiorello l'amore è bello vicino a te. Italia, un bacio.

啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦 Thank you.

Thank you.